Letture di Radio 24. Da sempre nel cinema americano ci sono film dove, senza correre il rischio di fare pubblicità occulta, si cerca di concentrare l'attenzione dello spettatore su un determinato prodotto. Si chiama product placement ed è una tecnica di comunicazione commerciale che consiste nel collocare l'immagine di un prodotto, in modo apparentemente casuale, all'interno di scene di film, ma non solo, come forma di pubblicità a opera di un'azienda che paga alla produzione un corrispettivo negoziato e disciplinato da un contratto. La birra, in questo senso, vanta un'invidiabile posizione nella storia del cinema, dove, soprattutto da quando i superalcolici vengono guardati con sospetto, è utilizzata per lo più come elemento di contorno e caratterizzazione dei personaggi. La sua forza nasce dall'essere la bevanda dell'uomo comune, utilizzata dai registi per accentuare l'aura di normalità e di semplicità di determinati personaggi. Niente di originale, sia chiaro. I cinefili si ricorderanno che nel capolavoro datato 1961, La regina d'Africa, Humphrey Bogart e Katharine Hepburn vengono ripresi in compagnia di una bottiglia di Gin Gordons e successivamente Bogie avrà una crisi isterica vedendo disperdere in acqua tutta la sua riserva alcolica. Secondo gli esperti del settore, il più riuscito e celebre esempio di product placement visuale riguardante la birra si trova in E.T., l'extraterrestre di Steven Spielberg, dove compare la Coors. Prima dell'uscita del film, la notorietà di questa marca era piuttosto bassa e la distribuzione non copriva l'intero territorio degli Stati Uniti. Ma la situazione cambiò notevolmente dopo che fece assaggiare a E.T. la sua birra. Con questa operazione, la Coors ottenne uno strepitoso successo, riuscendo a dare visibilità al proprio marchio in tutto il mondo e facendo di E.T. una sorta di testimonial esclusivo per la sua birra. Un altro risultato notevolissimo dal punto di vista commerciale lo ottenne Red Stripe, una birra presente nei film Cocktail e Il Socio, dove è accostata uno dei divi di Hollywood più celebri, Tom Cruise, protagonista in entrambe le pellicole. Nel primo, che sostanzialmente ha promosso la figura del bartender acrobatico, la birra giamaicana, fino a quel momento sconosciuta all'estero, compare in varie scene in cui Brian Flanagan, il barman impersonato da Tom Cruise, serve i clienti nei locali dove lavora. Nel secondo film, invece, la Red Stripe è offerta da Avery Toller, Gene Hackman, al giovane avvocato Mitch McDear, Tom Cruise, quando lo va a trovare a casa nelle isole Cayman. Guarda caso, il frigorifero è pieno di questa birra. Comunque sia, grazie al fatto che la trama di Cocktail venne ambientata nel mondo dei locali e che il barman Tom Cruise si rivelò un testimonial molto credibile e coerente con le vicende raccontate, l'operazione pubblicitaria ebbe successo. A un mese dall'uscita del film, Red Stripe vide aumentare le proprie vendite di oltre il 50%. Alla star americana è legato anche uno dei product placement di birra più originali nella storia del cinema, studiato da Guinness in una forma ibrida tra visuale e verbale. In Minority Report, ambientato nel 2054, i cartelloni pubblicitari sono in grado di leggere i pensieri delle persone attraverso la scansione delle retine, permettendo così di elaborare annunci personalizzati in tempo reale. In una scena ai limiti dello spot pubblicitario, il testimonial olografico del cartellone della Guinness guarda negli occhi John Anderton, Tom Cruise. Capisce che qualcosa lo turba e, chiamandolo per nome, gli suggerisce di prendersi una Guinness. La scena è spettacolare e non può non essere notata, tanto più che la cosa serve per smascherarlo di fronte agli agenti che lo stanno cercando in metropolitana. Geniale! A conferma che la birra è diventata quasi imbattibile nel product placement, va ricordato che in occasione di Casino Royale, James Bond dovette abbandonare il suo celeberrimo vodka martini, agitato e non mescolato, ricordava sempre Sean Connery, per un boccale di bionda, suscitando le reazioni di milioni di fan. La ragione? Semplice. Tra gli sponsor della 22esima pellicola ispirata alle gesta dell'agente 007 c'era il gruppo Heineken. È il cinema, anzi il business, bellezza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Maurizio Bertera, Se l'immagine di una bevanda fa parte della scena di un film, dal Giornale del 31 agosto. Avviso ai consumatori impulsivi. Meglio fare acquisti quando si è felici. Uno studio di Paul M. Hare, professore di marketing del Politecnico della Virginia, suggerisce che l'umore influenza la nostra capacità di fare valutazioni veloci, equilibrate e appropriate, e di conseguenza di fare acquisti con saggezza. Se siamo di cattivo umore, suggerisce Hare, meglio evitare di comprare qualcosa che non avevamo programmato in precedenza. Potremmo pentircene. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Sei felice? Fa shopping da Vanity Fair del 17 agosto. Letture di Radio 24. Della TV in bianco e nero, quando c'erano solo due canali, tra i pochi film che la Rai mandava in onda c'era una netta predominanza dei western. Un genere che con gli anni è caduto in declino, anche se non sono pochi gli esempi di ottimi film western realizzati negli ultimi decenni. E si vocifera anche di un fantomatico western che Quentin Tarantino starebbe girando. Saranno pure campionari hollywoodiani di stereotipi, ma non è per caso che film come Ombre Rosse, Un Dollaro d'Onore e Il Cavaliere della Valle Solitaria hanno lasciato un'impronta indelebile nell'immaginario del western. Si potrebbe dire che sono i titoli stessi a evocare immagini suggestive ed emozioni forti. Peccato che in tutti e tre i casi quei titoli suggestivi siano stati un vezzo, non sempre brillante, dei distributori italiani. Il film in bianco e nero di John Ford, con un promettente John Wayne ancora giovane e magro, si intitolava Stagecoach, la diligenza, mentre grida tuttora allo scandalo il trattamento riservato al capolavoro di Howard Hawks, ribattezzato Un Dollaro d'Onore, perché il titolo originale, Rio Bravo, era stato inopinatamente imposto qualche anno prima al film di John Ford, Rio Grande. Genialità allo stato puro, al punto che ci si potrebbe quasi chiedere come mai non sia stato scelto di intitolare Rio Bravo, viceversa Rio Grande. Ma è il Cavaliere della Valle Solitaria a strabiliare maggiormente. Cinque parole per un sol nome originale, Shane. I cowboy, si sa, sono tipi tosti, solitari, che alle parole preferiscono i fatti. E questo film, girato nella splendida cornice del Grand Teton National Park, nel Wyoming, è la storia western per eccellenza. O meglio, la storia più classica, quasi biblica, che ci si possa immaginare. Shakespeare lo collocherebbe a uno dei primi posti della sua videoteca. Un misterioso straniero giunge a cavallo in un paesino di contadini, dove un bravaccio spadroneggia e la vita del posto non sarà mai più la stessa. Shane risolve a modo suo la faccenda, spezzando tante ossa e qualche cuore, ma certe questioni restano insolute. L'eroe, insomma, è solo di passaggio. In tal modo la sua natura leggendaria, quasi senza macchia, non viene scalfita dalle imperfezioni dell'individuo. Non ce n'è il tempo. In fondo non è la fine del viaggio a starci a cuore, è il viaggio stesso. Come dice il cantautore John Hiatt nel suo brano Train to Birmingham, a Birmingham non ci arrivò mai, ma l'intenzione non è quella. Certo, il western non è più il genere americano per eccellenza, il tipo di film in grado di riempire le sale indipendentemente da trama, qualità e attori, o quasi. Oggi se ne realizzano sempre meno. Ma quando Hollywood si mette di piglio buono e muove gli ingranaggi della sua possente macchina promozionale, capita ancora che un film western ottenga ottimi risultati e balzi agli onori della cronaca. Senza tornare troppo indietro nel tempo, è successo con pellicole come Silverado, Terra di confine, diretto e interpretato da Kevin Costner, Broken Trail, un viaggio pericoloso, con un meraviglioso Robert Duvall, un fan del genere, davvero attore hollywoodiano classico, e ovviamente le due grandi incursioni nella regia western di Clint Eastwood, Il Cavaliere Pallido e Gli Spietati. Nell'ultimo anno il fenomeno si è ripetuto con il fortunato remake de Il Grinta. Tratto dal divertente romanzo omonimo di Charles Portis, è una fedele trasposizione che vede il protagonista assoluto Jeff Bridges nei panni dello scorbutico sceriffo Cockburn, cieco da un occhio, ormai uno degli attori prediletti dei fratelli Coen che l'hanno diretto. Insomma, tanto per non scordarci che western non è sinonimo soltanto di scontri tra uomini e natura e tra uomini e uomini, contrapposizioni fortemente manichee, ma che c'è tanto spazio anche per il sorriso. Di recente il web è stato inondato dalle anticipazioni su un western fantasma che Quentin Tarantino sarebbe stato impegnato a girare. Tutte balle, sembra, malgrado il regista italo-americano abbia più volte dichiarato il suo amore per i B-movie spaghetti western degli anni 70. Non ci saremmo potuti che immaginare qualche bella risata e pure sangue a profusione, ma dovremo accontentarci di un suo cameo nel film che Franco Nero intende girare e che dovrebbe intitolarsi L'angelo, il bruto, il saggio, un tributo a Sergio Leone e John Huston. Pare che Tarantino si sia quasi auto-invitato e che sia un grande fan di Sergio Corbucci e dei suoi film. Non tutti i grandi attori registi americani la vedono allo stesso modo. Tommy Lee Jones, per esempio, al western all'italiana preferisce dichiaratamente le pellicole di grandi maestri come John Ford, Howard Hawks e Anthony Mann. Il suo film Le Tre Sepolture, in un certo senso, è un western moderno, un po' come lo è Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen. Presentato di recente al Festival di Locarno, Cowboys and Aliens, con l'inedita coppia Daniel Craig e Harrison Ford, è un tentativo, che pare piuttosto riuscito, di fondere l'anima del West con quella della fantascienza. Joe Lansdale l'ha fatto con successo parecchie volte, così come con successo cercano di dare un'anima western ai propri noir o un'anima noir ai propri western due cantori della fosca provincia americana come Anthony Neal Smith e Victor Gishler. The Deputy, il vice sceriffo, sarebbe un titolo molto western. Peccato che l'ultima fatica di Gishler in italiano compaia sotto il titolo semi-horror di Notte di sangue a Coyote Crossing. Di storie del West e dintorni ce ne sono tantissime, troppe per potersi orientare a dovere. Ci sentiamo peraltro di segnalare l'interessante Il grande libro del West americano, pubblicato dalla casa editrice Cavallo di Ferro, un ampio contenitore che lega la storia alla narrativa, alle canzoni e al folklore. Perché il West era pure quello, un mondo di uomini duri in una terra difficile. Qualche nome? Mark Twain, Zane Grey, Hoe Henry. Qualche personaggio? Il generale Custer, il presidente Theodore Roosevelt, il grande capo Cavallo Pazzo. Vi basta? Una lettura decisamente consigliata, così come mi sento ricaldeggiare per chi aspirasse a un'analisi più critica del periodo e del luogo, Storia della conquista del West di Ray Allen Billington, un'opera ineludibile, riccamente illustrata e impreziosita da una prefazione di Sergio Bonelli, il fratellastro di Tex Willer. Magari dopo aver fatto qualche lettura interessante ed esservi visti un bel film, vi verrà voglia di cucinare un Tex-Mex e musica country and western. Un paio di consigli? Qualsiasi cosa di Roy Rogers, un'antologia dei Sons of the Pioneers, l'album Western Beat di Kevin Welch o qualsiasi cosa di Buck Owens. Fishing line strung across the Louisiana River, gonna catch a big fish for us to eat. They're setting traps in the swamp, catching everything they can. Gonna make a living, he's a Louisiana man. Gonna make a living, he's a Louisiana man. Non si può certo dire che il western stia vivendo una seconda giovinezza. Siamo sicuri che di ragazzi di colore a vedere Jeff Bridges con la benda sull'occhio ce ne siano andati pochi. Ma se per quello i ragazzini afroamericani al cinema non vanno tanto, preferendo investire i loro spiccioli in altri passatempi e magari scaricando sul proprio PC l'ultima prodezza dell'attore nero preferito. Forse non ci andrebbero neppure se lo sceriffo fosse Samuel Jackson e il capo indiano Chris Rock, però mica male come idea. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rock Reynolds, L'indelebile impronta del western, dall'Unità del 30 agosto. Una volta, quando tornavamo dalle vacanze, trovavamo nella cassetta delle lettere le cartoline inviate da parenti e amici. Ora riceviamo solo messaggini. Ma che valore può avere un SMS? Si domanda Luca Goldoni in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Da quanti anni non scrivo cartoline? Ormai le continua a spedire solo un italiano su due, mentre in Francia se ne mandano 10 volte tanto. Eppure mi ribello al loro storico tramonto. Non intendo elevare un inno a un altro pezzo della nostra vita che se ne va, come è avvenuto per i macina caffè o le carrozze a cavalli, ma proporre invece qualche riflessione terra-terra. Lorda Barbara degli SMS ha fatto piazza pulita. Ma che valore ha un SMS? Uno scrive «Buon Ferragosto» e poi, premendo un tasto, lo scaraventa in un baleno a tutti gli indirizzi dell'agenda elettronica, senza distinzioni. Non ha pensato a te, non ha scelto una cartolina, non ha cercato il tuo indirizzo, non ci ha appiccicato un francobollo, non è uscito di casa per imbucare, non ha fatto attenzione a non mandarti lo stesso panorama inviato al vostro amico comune durante la stessa vacanza. E anche tu meccanicamente clicchi sul computer o sull'iPhone, grato ricambio, spesso senza aver individuato chi è quel Paolo o quella Francesca. Dove li hai conosciuti? Aboliamo gli auguri, piuttosto. Se al cinema scartocciamo rumorosamente popcorn, non è un buon motivo per sopprimere le caldarroste. Rifiuto questa sentenza emessa da un popolo di telefoninatori e per reazione mi metterò a spedir cartoline. Andrò a cercare nelle bancarelle d'antiquario quelle classiche del soldato appoggiato al tronco di colonna, del pupo nudo sul cuscino di velluto, dei due fidanzati col cuore in mezzo. Ma quelle sono già scritte, con una grafia tutta sbandata di 30 gradi a dritta. Non so cosa passa il convento nelle cartolerie del giorno d'oggi. Penso che ripiegherò sulla foto della mia gatta norvegese delle foreste, tirando sul retro una riga verticale e tre orizzontali, per l'indirizzo con il cap. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luca Goldoni, Le cartoline sostituite dagli SMS, così rinunciamo a momenti di poesia, dal Corriere della Sera del 29 agosto.